sapere questo, perché allora il legame intimo e vitale con Dio è belle fatto. È belle fatto. Uomo, riconosci la tua dignità. Riconoscendo la tua dignità, tu ti metti in adorazione di Dio, perché la tua dignità è opera di Dio. Com'è bello che Dio, facendosi uomo, ci ha insegnato. Tu sei venuto in chiesa a portare un mazzo di fiori e proprio mentre entri dalla porta ti viene in mente che un tizio, Caio, Sempronio, cugino, suocero, genero, ha qualche cosa contro di te, della ruggine contro di te, aspetta a varcare quella soglia, o metti lì quel mazzo di fiori vicino alla soglia, poi vai in cerca di quel tizio che ha la luna contro di te, vagli a dare il buongiorno o la buonanotte, se quando arrivi a casa sua è già sera. Poi torna e il tuo mazzo di fiori sarà gradito a Dio. Oh, Gesù benedetto, ti meriti davvero un bacio, perché noi a volte lo pensiamo così lontano, Dio, mentre così vicino come sono vicini i nostri prossimi, belli o brutti, simpatici o antipatici, amici o avversari. Pensa, ma io, Signore, non ho niente contro quello, è Lui che ce l'ha con me. Sì, sì, e questo è vero, vanno a cercare, appunto, perché è Lui che l'ha con te. Accorcia le distanze, vanno a cercare tu, fallo tu il primo passo. E poi torna, che ti abbraccerò io, il tuo Dio. Sentirai accorciate le distanze fra me e te, quando tu avrai accorciato le distanze fra te e il tuo nemico. Questo è il cristianesimo. Quanto è vero che il cristiano crede in Dio, quanto è caritatevole verso il suo prossimo. Era un uomo di Dio, un prete di Dio, Don Giovanni Calabria, sì, e lo hanno dimostrato le sue opere, che sono venute in soccorso dei ragazzi della strada, dei vecchi abbandonati e delle terre di missione dove nessuno voleva andare. Era un uomo di Dio, il santo curato d'Ars. Perché? Faceva molte preghiere, confessava molto, giorno e notte, fino all'esaurimento delle forze. Noi pensiamo talvolta che per essere intimi di Dio dobbiamo saltar giù da letto e fare chissà quali lunghe preghiere. Chissà quante volte in chiesa, a braccia aperte, via. No, se non ami gli uomini che vedi, come potrai amare Dio che non vedi? È Lui che ha insegnato che dobbiamo sentirci davanti agli altri come davanti a Dio. Qualunque cosa tu farai all'ultimo sarà come fatta a me, vero Dio e vero uomo. Lui ha tanto avvicinato a sé la natura umana che è diventato vero uomo, restando vero Dio, per farci capire, anche se siamo sordi e duri di cervice, che Dio ha tanto amato il mondo da dare se stesso agli uomini, soprattutto ai cattivi, che hanno più bisogno di sperimentare la vicinanza di Dio. Mistero bellissimo il cristianesimo, perché ci ha insegnato come accorciare le distanze fra noi e Dio. Dio benedetto, dove sei? Voglio vederti. Esci di casa tua, esci dalle sbarre del tuo egoismo, vai a cercare quel povero diavolo, Vai a cercare quell'ubriacone, vai a cercare quell'ammalato, quel vecchio isolato, abbandonato, vai a cercare quella che ha fame, vai a cercare quella che è lebbroso, vai. E sentirai Dio molto più vicino di quanto desideravi. Questo è bello. Lo volete questo legame intimo e vitale con Dio? La strada è questa. Ciascuno di voi scopra in sé il mistero di Dio e ciascuno di noi scopra negli altri il mistero di Dio. E scoprendo questo mistero di Dio in noi, quanto rispetto nascerà per la nostra personale vita e per la vita degli altri. Quanto rispetto, che è segno di vera adorazione di Dio. Avete mai visto come fa il sacerdote il giovedì santo durante la messa? A un certo punto lava i piedi a 12 persone. Di solito dovrebbero essere o bambini o fanciulli, oppure anziani o malati. Ecco, e poi avete visto anche il Papa quante volte è stato fotografato così, lavato il piede e asciugato, il Papa bacia quel piede. È un atto di adorazione di Dio. Ma questo uomo è un povero diavolo, che forse ha i piedi sporchi, proprio ancora puzzolenti. Oh, le apparenze ingannano. Ogni uomo è mistero di Dio. E il sacerdote che si inginocchia a baciare il piede a questi 12 intende baciare i piedi al crocifisso, a quel Dio che ha fatto e inventato i piedi dell'uomo e ha voluto averne anche lui un paio di piedi da offrire ai carnefici, perché li inchiodassero alla croce per noi uomini che spesso usiamo i piedi, i passi, per andare lontani da Lui, per cercare la schiavitù del peccato e di Satana.